verità. Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. I said nanni ne se ne s'aiuta. Tu sai a tu, tu sai a tu. A tu sto cuore in grado più di spietta. Farmene un po', farmene un po'. Una mozione di sfiducia. Io mi aspettavo sinceramente missili termonucleari che mi colpissero. E ho ascoltato una cosa flebile. Flebile, gracile, deboluccia. Ma aspettavo bombe atomiche. Ho sentito un, non so se si chiamano anche qui, i fifi, quelli che si accende, un fifi. Fatto un leggero fischio, un po' di fumo, e questo è tutto. Allora il famoso direttorio. Il direttore, che è finito male poi storicamente, perché come sapete a un certo punto Napoleone si è rotto le scatole e ha buttato la finestra tutti quanti. 18 Brumaio del 799. Direttorio porta male. Così come porta male qualcuno che è membro del direttorio, forte della sua esperienza di steward alla tribuna autorità del San Paolo, si candida a governare l'Italia. Proposito, noto fra parentesi che da quando non è più, non frequenta più la tribuna del San Paolo, il Napoli ha avuto un'esplosione. Che stia sempre lontano, diciamo. È Vincenzo De Luca che ce l'ha con Di Maio, il suo avversario politico numero uno. È tornato De Luca, che mi aspettavo la mozione di sfiducia, bombe atomiche, missili, invece cos'è? Una cosa gracile, fragile. Vincenzo De Luca nel suo splendore lessicale, che è Di Maio da quando non fa più lo steward. Il Napoli è esploso. Personaggetti, gentucola, cialtroneria pura. Vabbè. Questa è Crozza, che fa De Luca. Bisogna sempre specificarlo perché non si capisce mai qual è Crozza e qual è l'originale. Cari amici, sono le 6:30 minuti in punto, con Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci siamo! Questa è 24 mattino, siamo in diretta come sempre e siamo pronti anche oggi, E chi ci sarà? E chi ci sarà? E chi ci sarà oggi? È il ritorno al Parlamento che possiamo aprire, possiamo aprirlo. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Ministro Boschi, tra l'altro oggi il giornale racconta questa cosa del ministro Boschi, cioè legata al ministro Boschi, almeno così racconta il giornale. Il Frecciarossa della Boschi. Praticamente dal 15 dicembre il Frecciarossa Firenze-Milano, l'alta velocità, parte da Arezzo. dal 15 dicembre, parte da Arezzo e i pendolari pare che siano arrabbiati perché questo comporta dei ritardi quotidiani, così almeno racconta il giornale, io non lo so, non prendo quel treno, magari qualcuno prende quel treno ce lo può dire, comporta dei ritardi perché è stata inserita la partenza da Arezzo che non è sulla linea alta velocità. Allora il giornale accusa, ecco, è il freccia rossa della Boschi, ovviamente non è che c'è nessuna prova che il ministro abbia voluto la fermata, per carità, però questo è. Ma dicevamo, c'è al Parlamento il grande ritorno di lui, l'immarcescibile, il re dei ciocapiatti. No, per la verità sarei io il re dei ciocapiatti, come dice lui, Albertone Forchielli. Alberto, come stai? Ciao Alino, bene. Dove ti trovi? A Singapore. Nel tuo peregrinare a Singapore. Che clima c'è a Singapore di febbraio? Ah no, fa sempre caldo. Sempre. Fa un caldo a Singapore. C'è sempre quel caldo umido. Ah, quella roba. Adesso sono qui su quest'isola di Sentosa, che è una piccola isola che da sul mare. Da un lato sembra di essere quasi un'isola dei Caraibi, poi fai un quarto d'ora in taxi e bella città del mondo. Cioè, ci sono i casinò, quindi sei andato a giocarci tutti i soldi italiani al casinò. E vabbè, no, vi detesto. Cos'è? Detesto. Quando vado in un casinò, sì, che devo comunque metto i soldi, poi non vedo l'ora di perdere tutto per andare via. Già metto quei 100 euro, quei 200, poi dopo non vedo l'ora di perdere perché non ne posso più. Proprio ti fai del male, tutti, ma quello no. Cioè entri in un casinò e dici li butto tutti 100 euro via. Oh, meno male, ho perso, via, fuori dai coglioni. Sì, ma se vinco mi tocca star lì qualcosa, sto lì finché non li perdo. È una sciagura. Sì, se vinco qualcosa mi tocca star lì anche un'ora. È disastro. Un'ora di perdere, prendo, vado via. Ho capito, ma non andarci. Non è che sei obbligato. Che è caduta la linea. Ma non andarci, dico. Vabbè, ho già capito che sarà una comunicazione oggi complicata. Tra l'altro non si sentiva neanche benissimo. Adesso vediamo, d'altronde a Singapore. Vabbè, insomma. Con Alberto Forchielli siamo qui ovviamente a parlare di tutto e di più, sempre che la linea ci assista oggi, e a raccontare quello che succede. D'altronde la politica italiana, che dire, le solite cose, le unioni civili, la politica europea, mamma mia, questa cosa della politica europea, le risse tra Renzi e la politica europea, una roba noiosissima, non la capisce nessuno. Tu entri in un bar, chiedi un cappuccio, chiedi alle 10 persone lì: o avete sentito mi spieghi cosa succede tra l'Italia e l'Unione Europea? E vedi queste facce assenti che ti guardano, dicono: l'Italia, l'Unione Europea, cosa? Non si capisce niente, è una cosa che non interessa a nessuno se non a Renzi, ai governanti italiani e all'Unione Europea. Però abbiamo recuperato Alberto Forchielli. Albertone, intanto sei lì da quelle parti, sì. Visto che sei sempre tra vicino alla Thailandia, dove c'è il mio amico Mr. B, ci sono novità che ci devi comunicare del nostro Mr. B? No, suo fratello va alla grande, eh? Il fratello giovane di B sta facendo uno sviluppo straordinario sul fiume di super lusso. No, il fratellino va alla grande, siamo un po' impiombati. Abbiamo preso pure il B sbagliato. Porca miseria. Cioè, dovevamo chiedere al fratello, allora, magari. Punto. Niente, che dobbiamo fare? Le linee telefoniche oggi sono così. A Singapore è un disastro. No, Singapore, città, ci ha detto ieri, quando mi ha chiamato, magnificava, guarda che sarò a Singapore probabilmente magnificando le linee telefoniche, la comunicazione fantastica di Singapore. Ogni 6 secondi cade la linea. Va bene, allora... dicevamo di che cosa si parla? Beh, si parla anche molto molto delle polemiche del Family Day. Vediamo se l'abbiamo recuperato alla terza volta che cade. Cosa succede, Alberto? Come mai? Ma cade? Non lo so, secondo me siete voi che non pagate la bolletta, perché io la settimana che sono qui mai caduto il telefono. No, ma infatti se voi che siete alla canna del gas. Siamo alla canna del gas, può essere. Ieri magnificavi Singapore, tutto eccezionale, tutto perfetto, e infatti ogni tre secondi cade la linea. Dicevamo di calcio, hai visto qua il trionfo, ancora ce lo ricordiamo, del derby. C'è Mancini che fa il dito medio, fa il dito medio. Io non so, io non riesco, seguo, ma ho visto tutte quelle chiacchiere, faccio fatica a sentire, ma insomma alla fine per Mancini andare negli spogliatoi è come per me andare al Moulin Rouge. No, non credo niente, basta. Che dobbiamo fare? Basta. Ci rinunciamo? Cosa dobbiamo fare? Vabbè. Non sappiamo cosa fare. Ogni 10 secondi cade la linea e lo censurano. Sarà durissima. Pensa che dobbiamo arrivare fino alle 6:55 con Alberto Forchielli, così ogni 30 secondi cade la linea. Ci riproviamo l'ultima volta, lo dico. Alberto, cosa succede? Cade la linea ogni 20 secondi. Non pagate la bolletta, parla con la Telecom. Insomma, alla fine va a finire che per Mancini andare negli spogliatoi come per me andare al Moulin Rouge. Questo sì, la siamo riusciti a sentirlo, ma non credo proprio che sia così. Insomma, però. Ma poi secondo me ci sono dei giocatori che invece, non è che qualche giocatore invece di chiamarlo mister lo chiama mistress? No, vabbè, cambiamo argomento, che il calcio forse non è proprio l'argomento migliore. Allora, diciamo, abbiamo vinto il derby, chiudiamola qui, perché qua affondiamo in un ambito pericolosissimo. Figurati, lo chiamano mister assolutamente. Però, caro Alberto, allora, una cosa che non ha capito secondo me nessuno segue è questa dell'Unione Europea. Tu l'hai capita, abbiamo ragione, dobbiamo fare gli italiani orgogliosi. No, Renzi è un cul-de-sac, sì. Perché ormai anche con questa realtà delle banche che è affiorata, con l'italiano nei prossimi 10 anni si fa l'1% tanto. In più con questo problema dei migranti che affiora, che potrebbe generare una crisi politica, Renzi è un'alternativa che strappare, cerca di portare a casa qualcosa. O portiamo qualcosa a casa dall'Unione Europea da soli, a generare un minimo di crescita, affrontare questa incumbent crisi dei migranti. Politicamente non tiene nessuno. È proprio su quello. È su quello che litigano, no? È su quello che litigano proprio. Sì, vabbè, è un'alternativa che più deve strappare, non è che può continuare a raccontare balle, ma sui giornali esteri non se ne parla della crisi Italia. Apri i giornali, sembra che ogni giorno e Renzi ancora tuona. Allora, io l'ho capita così, no, adesso ho fatto anche un po' di ironia dicendo che se entri in un bar nessuno capisce. Per spiegarla a tutti, dobbiamo dare 231 milioni di euro alla Turchia, è la nostra quota parte dei 3 miliardi che l'Unione Europea deve dare alla Turchia. Allora, l'Italia vuole scontarli, diciamo, dal conto totale, mentre l'Unione Europea dice no, intanto pagate, poi sulla flessibilità vedremo. Questo è in sintesi, no? La questione, no? Sì, ma c'è la questione più grande. Fatto quel minimo di flessibilità che chiede Renzi, alla fine lo ottiene, ma sono 4 lire, capito? Cioè, la crisi che ci sta sulla testa è quella dei migranti, quella può generare, non si sa da che parte prenda, e può generare una crisi politica importante. Per cui lui dice sì, voglio anche i 3 miliardi che non ci sono migranti in Serie A, migranti in Serie B. Insomma, lui ha bisogno di creare un casus belli, ha bisogno di compattare un po' l'opinione pubblica italiana, ma del resto è un'alternativa. Eccolo qua. Vedi cosa ci scrive la nostra, pensa, Françoise, ci segue sempre da Monte Carlo, ci scrive tutti i giorni, dice a quanto pare non siete credibili, perché lei è francese. Che ne pensa Alberto? No? Siamo credibili, caro Alberto? Cioè, possiamo fare un po' la voce grossa almeno su questa storia dei migranti in Europa? Sì, perché sì, possiamo per disperazione. Perché il nostro crollo travolgerebbe un po' l'Europa, l'euro. Vabbè. Travolge intanto le linee telefoniche. Niente, è la Telecom. No, non è la Telecom. Qualcuno ci dice che è Mauro Meazza che ci stacca i cavi telefonici. Però insomma, altro tema. Allora, quello del Family Day. Ci sono le polemiche. Sentite qui Brugnaro, che è il sindaco di Venezia. Noi dobbiamo dirgli che hanno una mamma e un papà. Mi dispiace, ma è arroganza culturale. Questa cosa non passerà. Purtroppo, state dicendo cazzate alla gente. La cosa peggiore è che dietro c'è la teoria del gender, che è quella del bambino che si può costruire su una provetta andando a innestare il seme su una mamma povera del mondo che poi partorisce un bambino a pagamento. Eccolo lì. Brugnaro, sindaco di Venezia contro le teorie del gender. Tra l'altro c'è una grande polemica perché la Meloni, Giorgia Meloni, ha annunciato di essere incinta e da allora ci sono state, ma veramente, allora, la rete, Twitter, Facebook, ci sono stati insulti, ma anche battute. Ma sentite la litizzetto, C'è stato anche l'annuncio della Meloni che ha detto di aspettare un meloncino. Sì. Siamo molto contenti. Fa molto ridere che l'abbia detto al Family Day per la famiglia tradizionale, perché poi lei non è sposata. È come andare ad un festival vegano e dire: ehi ragazzi, io mi sono appena mangiato una fiorentina al sangue. Vabbè, ma poi insomma insulti. Anche la nostra amica Vladimir Luxuria, ma cosa ha twittato? Auguri e figli trans. Così ha scritto alla Meloni, e la Meloni incinta. Vabbè, insomma. Family Day e le unioni civili. Caro Alberto, che ti abbiamo recuperato. Neanche questa è arrivata sui giornali da quelle parti, mi sa. Perché... No, sì, davvero. No, grazie. Family Day, no, grazie. Family Gay. Io sono molto favorevole agli unioni civili, certo. Sei favorevole. E poi sai, se tu vai lì intorno al Family Day, accendi il gay radar con radiocognometro, ne spuntano fuori 100.000. Di che cosa? Sono tutte nelle sagrestie poi alla fine. No, dai, adesso. Dici. Ma sì, c'è tutta una falsità dietro quella roba lì. Del resto, anche sulla stepchild adoption, i numeri di piazza contraddicono i numeri del PD in Parlamento. Dice. Secondo me è dovuto al fatto che molti ancora credono che i comunisti mangiano i bambini. Però bisogna capire se questa cosa passerà, perché adesso Alfano ne fa quasi una crisi di governo. Dice a Repubblica, al PD: togliamo la stepchild adoption, togliamo questo, togliamo qualsiasi riferimento al matrimonio, e allora può passare. Vabbè, togliamo tutto, insomma, rifacciamo la legge e Alfano la mette così. Però insomma, tu dici, è una questione di civiltà, dovere. Ma sì, è una realtà, è un fatto umano, importante, non vedo perché si debba negare. Però una cosa che non ho capito della cedina, l'utile in affitto prevede la cedolare secca? Non credo, peraltro è vietato in Italia. Sai niente? No, cioè, peraltro in Italia è vietato, quindi però... Io ti dico delle cose interessanti, faccio domande, te mi ridi in faccia. No, ma non è che ti rido in faccia, è che l'utero in affitto è vietato in Italia, però lo chiederemo alla Cirinna se prevede la cedolare secca l'utero in affitto. Non lo sai, pur di prendere una tassa, magari in Italia, se ci fosse farebbero di tutto. Però fai così, Alberto, stai lì, che devo dare il traffico, stai lì, spero che la linea ci assista. Ti devo anche chiedere poi cosa ne pensi del ministro Poletti, che ha proposto ieri 320 euro ai poveri in Italia, 320 euro al mese ai poveri. C'è già chi lo attacca a dire l'ennesima mancia elettorale, ecco, lo dice per le elezioni, tra poco. Milan, ma che traffico e traffico, qua si muovono solo i cammelli. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Mi puoi spiegare, siccome stamattina sentivo parlare di armonizzare, il buon Renzi un po' di tempo fa ci disse che avremmo risparmiato col Senato, ma risparmieremo o spenderemo di più, eh? Evviva la vecchia politica, che era molto meglio di questa! Viva il Milan e viva Milan! Viva tutti i Milan del mondo! Mihailovic quando parla sembra uno che si è appena scolato una bottiglia di Sligovic. E basta con sta storia delle riunioni civili, basta, basta davvero, mandateli a fanculo questi, che non sanno nemmeno loro quello che dicono, vi credevo più intelligenti anche voi. Le unioni civili vi disturbano, voi non ci disturbate mica, ma perché non possiamo vivere in pace, in armonia, voi con le vostre regole e le unioni civili con le sue regole? Alessandro, vogliono le unioni gay perché i gay votano. Vabbè, come vedi, caro Alberto Forchielli, ognuno ha la sua. Poi la questione è interessano o non interessano, poi tutti ci chiamano più o meno su quello. Cioè, molti dicono basta, hanno rotto le unioni civili, e poi invece la maggior parte delle telefonate poi sono su quello. Vuol dire che è un problema che ognuno a modo suo sente, no? Capisco, il problema è un fatto di libertà. È un fatto di libertà. Però, ad esempio, tu sei a Singapore, ecco, come le trattano queste cose? Ci sono? No, molto aperti. Sono molto aperti? No, per carità, sì. Ecco, vedi. Vabbè. No, solo noi siamo bigotti, ma siamo bigotti di tutti, sugli staminali, sugli ombroni, sugli embrioni, sulle ricerche scientifiche. Siamo un paese, 1000 anni indietro. Addirittura, 1000 ma anni sì, indietro. Se non c'è cosa nuova, il paese si schieri e decida di non andare avanti. Vabbè, insomma, tu dici bigotti, immagino, quindi il perché dici bigotti per il Vaticano, insomma. Sì, l'influenza del Vaticano certo non è positiva su questo aspetto, poi senti da che pulpito, ecco. Vaticano, pensa te da che pulpito viene la predica. Vabbè, no, non voglio entrare nei particolari perché l'hai detto. Non ti scateno, ho detto. Allora non ti scateno. Ma a proposito, hai sentito questa di Poletti? Questa non è arrivata sicuramente a Singapore, ma se hai letto qualche giornale, ieri a Repubblica il ministro al lavoro ha detto siamo pronti a dare 320 euro ai poveri. A me pare un po' che voglia inseguire anche su questo il Movimento 5 Stelle, che fa del reddito di cittadinanza, come si chiama, loro per la verità vogliono credo 800 euro, un po' il cavallo di battaglia politico. E allora Poletti promette 320 euro a testa per 1 milione di persone. Beh, non è male, insomma. Sì, ho capito, ma non vedi che siamo qui che ci sfasciamo con Bruxelles su 200 milioni di euro, non c'abbiamo gli occhi per piangere. Come fai a definire i poveri? In teoria la soglia di povertà è molto alta. Beh, in teoria sai, prendi i dati dell'Istat. Quelle robe che poi vengono fuori, poi dopo una settimana non le vedi più sui giornali. Come quello lì del... Quello lì del bi. Vabbè, insomma, è così. Che dobbiamo fare alle 6:50 minuti? Le comunicazioni con Singapore, dobbiamo fare una c'è un'ambasciata a Singapore. Abbiamo un'ambasciata a Singapore, un consolato a Singapore, chiamiamo qualcuno, gli facciamo un mazzo così, diciamo di metterci un ponte radio con Singapore. Ragazzi, che mattinata. Le 6:51 minuti, c'è Albertone? Se no vi faccio sentire Maria Dinolfi che canta. Alberto, eccoci qua. Pronto. Vabbè, sì, pronto. Ma porca miseria. Vi faccio sentire Marione Adinolfi che canta. Voi dite, ma com'è Marione Adinolfi che canta? Sì, Marione Adinolfi che canta. Radio Rock, gli amici di Radio Rock ogni tanto beccano questi VIPs e li fanno cantare. Mario Adinolfi si lancia sulle note di One degli U2. Mi ha rovinato la canzone più bella del mondo. Mi ha cantato Bono. Ha fatto quello che vorrei fare io nella vita. Bono, Marione. One love, one life. Il ritmo, però, il when tempo. It's one need in the night. Il tempo. One love. No. We get to share it. Vabbè. Leaves you, baby. Non don't care for it. Non sei a tempo. Siamo però appena scesi dal parco del Circo Massimo con Mario Adinolfi, che ha parlato e ci sta cantando One and Only. A chi la vogliamo dedicare? Tanto ho appena stonato, non cantato. È dedicata all'amore, quell'unico amore vero, è l'amore di una mamma e un papà per i loro figli. Oh mamma, Mario, no, dai, Mario, anche Wanda, che cacchio! Sul palco, dedicato a Renzi. Porca miseria, pure Juan l'ha dedicata all'amore vero, i figli col papà e la mamma. Caro Alberto Forchielli, eccoci qua, non lo so, c'è chi ci propone un telefono satellitare per Albertone. Ma chi... guarda, proprio a Singapore che succede questo è colmo. Sì, infatti, c'è chi ci chiede di chiamarti via WhatsApp, ti possiamo chiamare via WhatsApp, ma non possiamo metterti in onda perché insomma non è che cioè, ci sono. Vabbè, vai adesso... al dunque, vai al dunque, di cosa vuoi parlare adesso? Ma vado al dunque, no? Vabbè, di che cosa stavamo parlando? Di Poletti, non ti piace, ti sembra un po' una mossa che non abbiamo ma, i soldi. Ma sì, come 500 euro per i ragazzi di Renzi. E poi dopo se ne è parlato due giorni, poi sono finiti. Oppure quell'altro che assumeva 500 docenti mondiali, venivano in Italia, se ne è parlato due giorni, è finito. Quelle buttad. Oddio, oddio, però di Renzi non è che non se ne parla. Adesso guarda che i 500 euro arriveranno. Dici? Eh sì. Poi c'è anche quell'altra buttad che pigliava 500 professori da tutto il mondo, li faceva venire in Italia, l'hai mai più sentita? Io non so, aspettiamo che si consolidino queste robe qui, capito? Sennò sì, perdiamo tempo anche noi. Cioè, tu vuoi vedere Cammello, 320 euro. Sì. Se vedi Cammello, puoi... Vabbè, ho capito, quindi... sì, perché tanto la politica, mica uno gli chiede conto tra un anno, dice scusate ma i 320 ma euro... Sì, certo. Ma nessuno si ricorda, la gente ha memoria corta. Effettivamente è un po' così. Vabbè, ti racconto questa. A Roma hanno scoperto, il commissario Tronca, che ci sono vari immobili, ne abbiamo parlato varie volte, affittati del comune, a 10 euro al mese, 10 euro, 7 euro, 8 euro, 15 euro. Ma questo è del centro di Roma, eh? Cioè, capisci? Questa è la capitale d'Italia. Che te devo dire? No, anche a Roma, cosa vuoi? Ci sono 5 ratti per abitante, c'è l'invasione dei topi. Poi dicono che siamo un paese crescita zero, ma che coraggio. crescono i ratti, ecco, però. Secondo me Roma va stralciata. Va stralciata. Cosa vuol dire? Sì. Ma cosa vuoi commentare? Puoi dire che anche la provincia italiana non è molto meglio. Ma Roma ci sta abituando a tutto. Ho capito, ma va stralciata, è la capitale d'Italia. Se stralciamo la capitale d'Italia ci togliamo via tutto. No, va stralciata la tua trasmissione. Della stessa cosa. Va tolta. Ho venuto qualche mese fa, c'è l'erba alta, sembra di essere a Singapore, capito? C'è l'erba alta che viene fuori da divisori, sulla famiglia, sulla cassa, cioè, i giardini incolti, sporcizia dappertutto. Un disastro. È veramente un disastro. Eppure il turismo alle stelle, per cui siamo belle. Va bene. Saluto a tutti gli amici di Roma a questo punto, perché ti stanno ascoltando. Sono abituato. sono abituato. Lo sanno anche loro, capito? C'è stare le case con le grate a pian terreno. La città mezza blindata, topi d'appartamento dappertutto, topi d'appartamento, topi veri, topi veri e topi d'appartamento. Lasciaci con una roba che ci vuoi dire tu, dai, mancano 30 secondi in questa comunicazione ho visto che Renzi è in Grecia, in Africa sì. speriamo che non faccia una botta sulle banane invece che sui Rolex stavolta. No, infatti. Speriamo, che Renzi non si fa. Ti ricordi quella che gli ho filato improponibile del Mozambico, il grosso dito? Speriamo che Renzi non si fa in Mozambico, non si faccia male il grosso dito con tutti quei ragazzi. No, devo affondare nei ricordi e cercarmela questa, ma ci lasci come ci hai salutato con una linea telefonica che cade. com'è che si dice in certi casi, il bello della diretta. Ma io di bello proprio ci vedo poco quando cade la linea 15 volte. Comunque ringraziamo Albertone Forchielli. Adesso andiamo a chiamare l'ambasciata di Singapore per verificare se c'è qualche collegamento da migliorare. E ci sentiamo alla prossima. Ciao Albertone. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. Eccoci, cari ascoltatori, le 7:18 minuti in punto. In punto, e allora siamo qui a leggere i giornali che oggi aprono in gran parte sulla ennesima rissa verbale Renzi Unione Europea, rissa che certamente nessuno degli italiani capisce. Sono tematiche abbastanza incomprensibili, cercheremo di spiegarla, ma tant'è, questo è. E allora andiamo a sfogliarli questi quotidiani. Allora, siamo a martedì 2 febbraio, i titoli, il Sole 24 Ore apre su Draghi, presidente della BCE al Parlamento Europeo, moderata ripresa ma i rischi aumentano, applicare con coerenza le norme sul bail-in, questo Draghi. E poi eccoci qua, Corriere della Sera, Europa, Renzi attacca ancora, nuovo scontro sui fondi alla Turchia, basta coi burocrati, noi salviamo vite. Repubblica, Renzi sfida l'Unione Europea, noi salviamo vite, voi pensate ai conti. Il Messaggero, Renzi Unione Europea, guerra sui migranti. E poi ancora, le cavolate di Bruxelles, questo è il titolo dell'Unità in prima pagina. Per la Stampa, conti e migranti, Renzi sfida l'Unione Europea. Il Secolo XIX, Unione Europea e conti, Renzi non arretra. Il Giorno, migranti, Renzi sfida l'Unione Europea. Insomma, voi dopo tutta questa serie di titoli dite, beh, ma sta succedendo una cosa gravissima evidentemente. Vabbè, ma tra poco la racconteremo. Comunque, altre aperture invece sono bombe sul negoziato, questo è il titolo di Avvenire. Per i migranti Renzi promette aiuti alla Turchia, ma si parla soprattutto delle bombe sulla Siria. Libero invece il titolo, Meloni linciata perché è incinta, il titolo di prima pagina. Il Fatto Quotidiano invece l'inchiesta su un paese dell'impunità, spacciatori alla luce del sole, vietato arrestarli per legge. E infine il Giornale, no, ma l'apertura del Giornale la vedremo tra poco perché la leggerò, però iniziamo da un tema che abbiamo affrontato anche con Oscar Giannino venerdì in trasmissione. Oh, che bello avere una bella casa con vista sui fori imperiali a Roma e pagare, che ne so, 10 euro al mese d'affitto, 15 euro, 20 euro. Succede, lo abbiamo raccontato, c'è un cittadino onesto che si è messo lì ed è il nostro ospite, un pensionato che ha controllato, ha spulciato tutti i dati sul comune, poi ha fatto una denuncia alla Corte dei Conti, alla Procura della Corte dei Conti, chissà questa denuncia che fine ha fatto, dicendo ci sono migliaia e migliaia di immobili proprietà del comune di Roma affittati a locazioni, a prezzi di locazione risibili, 10 euro, 15 euro. Bene, ora il commissario tronca, ha deciso che vuole vederci chiaro. In realtà l'inchiesta va avanti da tempo, ma meno di un euro al giorno per un appartamento nel comune con vista sul Colosseo e fori imperiali, pochi centesimi per una casa Borgo Pio a ridosso di San Pietro, un po' di più per abitare a Corso Vittorio Emanuele fra Piazza Navona e Campo dei Fiori, esempi che non mancano. 574 immobili del Campidoglio, che si trovano soltanto nel territorio del primo municipio, finiti nel mirino del commissario Tronca e della sua segreteria tecnica, perché affittati a prezzi decisamente fuori mercato da anni. Questo è l'inizio dell'articolo di Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera, pagina 17. Roma, case del comune a 10 euro. Quando uno vede queste cose risapute, le pubblica dedica una pagina. Roma, case in centro a 10 euro al mese. Con Laura Serloni che racconta lussuosi ma low cost quei 600 appartamenti con canoni mai rivisti. Ora Tronca cosa vuole fare? Vuole andare a cercare quei dirigenti del comune che hanno evidentemente chiuso gli occhi per troppi anni di fronte a questa situazione, perché com'è possibile che i canoni del genere non siano stati mai rivisti per anni, siano stati tollerati a prezzi di questo tipo senza che nessuno dicesse nulla? Ecco, Tronca vuol vederci chiaro su questo. A proposito dell'apertura del giornale che dicevo prima, il titolo di prima pagina del giornale è questo, è una storia un po' particolare. Un Frecciarossa per la Boschi, in guaia i pendolari italiani. È la storia di quello che il giornale definisce un treno ad personam, e cioè il Frecciarossa Firenze-Milano. Il Frecciarossa che è sull'alta velocità, dunque, che parte alle 6:15 da Firenze, porta molti pendolari, e molti pendolari hanno notato, racconta il giornale con Andrea Zambrano a pagina 10, che da un po' di tempo questo treno è in ritardo, accumula ritardo. Da quando accumula ritardo? Da quando, dal 15 dicembre scorso, non parte più da Firenze, ma parte da Arezzo. E il giornale lo definisce così, il Frecciarossa della Boschi, infreddoliti sotto le bianche volte della stazione griffata Calatrava, i pendolari della Reggio Milano delle 7:52 guardano all'orizzonte dove appare il Frecciarossa 9500. Dal 15 dicembre scorso è in ritardo, mentre prima era sempre di puntualità svizzera. Da quella data, 15 dicembre, il convoglio che percorre l'alta velocità ha aggiunto una sosta in più, anzi ha spostato la partenza, non più da Firenze, ma più a sud da Arezzo, che però non è sulla linea ad alta velocità, il che fa partire il treno da Firenze in perenne ritardo. Risultato, i pendolari arrivano tardi in ufficio a Milano. Un ritardo così non lo si era mai visto da quando è stata inaugurata la stazione Meteopadana. Ora, dice il giornale, non c'è ovviamente alcuna prova che il ministro Boschi abbia voluto la fermata nella sua città, ma tanti indizi, a cominciare dal fatto che la blasonata Parma va chiedendo da tempo una fermata invano. Invece per Arezzo è stato fatto uno strappo alla regola. E allora, dice il giornale, insomma, il rischio di definirlo un treno ad personam, il Frecciarossa che parte dal 15 dicembre da Arezzo. Vabbè, mezzi di locomozione diversi, ma che fanno molto arrabbiare gli italiani, sono invece le auto blu. Andrea Bassi lo racconta, pagina 7 del Messaggero. Tagli, le auto blu dimezzate, ma i ministeri resistono. È dunque una buona notizia, perché è stato concluso il censimento che Renzi ha voluto, promettendo un taglio drastico delle auto blu, stabilendo al massimo che ogni ministero ne avrebbe dovuto disporre solo di 5 oltre a quella del ministro. Ebbene, il Messaggero dice che da oltre 40.000 unità, cioè il censimento ha fatto diminuire le auto blu di oltre 40.000 unità, erano 66.579 nel 2014, ora dovrebbe essere circa 22.415, quindi questa è una buona notizia. I ministeri però sono quelli che resistono. Per esempio a Del Rio, al ministero di Del Rio, sono intestate, racconta il Messaggero, 115 vetture usate però da altre amministrazioni. Poi c'è il caso del Viminale. Insomma, il termine per ridurre i veicoli a 5 per dicastero è scaduto. I ministeri, nonostante il numero totale di auto blu sia molto diminuito, ripeto, di 40.000 unità, dice il Messaggero, però i ministeri resistono. Comunque si continua e si va avanti. Il Fatto Quotidiano invece ha un'apertura dedicata a un tema che certamente crea allarme sociale e che è un'inchiesta di Ferruccio Sansa molto interessante a pagina 12. Il titolo di apertura del Fatto Quotidiano è «Spacciatori alla luce del sole, vietato arrestarli per legge». È il racconto di come le stesse forze dell'ordine ammettano a Ferruccio Sansa «vede quello spacciatore, se lo arresto tra due giorni è di nuovo in giro per Roma». È come svuotare il mare con un colapasta. Così l'agente di polizia in borghese scrolla le spalle e chiama la centrale, più che altro per senso del dovere, in questo quartiere, in questo caso siamo al Pigneto, quella che era una volta un quartiere popolare, difficile, case basse senza colori, ma anche piazzette di una bellezza inaspettata. Poi, con i locali, la musica, sono piombati gli spacciatori. E succede, racconta Sansa, a Roma, come a Milano, Torino, Catania, con gli agenti delle forze dell'ordine che dicono dagli anni 70 è tutto cambiato. Per trovare una dose negli anni 70 o negli anni 80 dovevi andare nelle periferie, ora le pastiglie, la coca, le trovi nei posti alla moda. La droga dei disperati è stata sostituita con la droga di chi si diverte. E c'è questa ammissione di impotenza, lo spaccio in piazza, i pusher impuniti, garantisce lo Stato, l'inutilità di tanto lavoro delle forze dell'ordine che dicono noi li arrestiamo, ma poi la legge fa sì che nel giro di pochi giorni vengano rilasciati. Ed eccola qui allora l'inchiesta sul Fatto Quotidiano in prima pagina e poi a pagina 12. Ma eccolo qui l'articolo che mi fa della giornata, l'articolo che se siete in macchina ci fa tenere le mani sul volante, se siete sul Firenze-Milano con partenza ad Arezzo, ovviamente cari pendolari, posizione da atterraggio di emergenza in aereo, quindi con la testa un po' reclinata in avanti, fatelo pure adesso, se avete le cuffiette vi daranno dei matti quelli che non ascoltano Radio 24, ma voi fatelo. Eccolo, è l'incubo del canone Rai, è una cosa che effettivamente qualcuno mi aveva fatto notare, ma adesso che lo mettono in bolletta, che succede per coloro che non hanno pagato il canone della Rai fino a questo momento? Vengono sanate le bollette precedenti degli anni precedenti? Udite bene italiani, so che siete molto interessati all'argomento, vengono sanate o no le bollette precedenti? Paolo Bracalini sul giornale, l'incubo del canone Rai in bolletta pure gli arretrati. L'ipotesi mai smentita dal governo è questa: verranno riscosse le quote non pagate degli ultimi 10 anni. 10 anni! Non avete pagato il canone della Rai? Arriverà in bolletta? Finora non è mai smentita questa ipotesi, rischiate di pagare gli ultimi 10 anni. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Alessandro Milan, se non ci fosse, ci tocca comprare i giornali se non ci fosse. No, attenzione caro ascoltatore, ti ringrazio, hai mandato le vostre sigle al 349-238-6666, soprattutto via WhatsApp, così in audio arrivano qualitativamente perfette, ma non è che io voglio non farvi comprare i giornali, anzi vi voglio dire stuzzicare qua e là con qualche articolo, poi uno approfondisce andando a comprare il sano giornale, facendo questa azione quotidiana, anzi più giornali in edicola. Cerco, meno male, no sennò poi mi accusano di affossare le vendite dei giornali. Allora, capite che cosa sta succedendo tra l'Italia e l'Unione Europea, tra Renzi e l'Europa, tra noi e loro, tra Roma e Bruxelles? No, state tranquilli, state sereni, come si potrebbe dire. Non lo capisce quasi nessuno, è una cosa abbastanza, cioè adesso cerchiamo di spiegarla, ma insomma è una cosa che non interessa a nessuno. Ecco, se andate in un bar e chiedete a 50 persone, lei, fatelo come esperimento oggi, lei, a lei interessa cosa sta succedendo con l'Europa? ecco, vi guarderanno con facce, con occhi sgranati. Questo ve lo assicuro. Io li faccio questi esperimenti ogni tanto, perché non bisogna mai perdere il contatto con la realtà vera, con il paese. Ebbene, che cosa sta succedendo? Beh, intanto che Renzi, in viaggio in Africa, ha ancora risposto alle questioni economiche con l'Unione Europea, dicendo soprattutto sullo sfondo c'è la questione dei migranti. Comunque tutto lo spiega molto bene Dino Pesole a pagina 7 del Sole 24 Ore. La partita con Bruxelles, resa ancor più incandescente dalle nuove dichiarazioni di Renzi, si gioca non sul conteggio dei 281 milioni del contributo nazionale alla Turchia, ma sui 3,3 miliardi della clausola migranti. Ecco, questo è il punto. Noi pensavamo già che si litigasse soprattutto sul fatto che l'Italia deve dare 281 milioni, è la sua quota parte dei 3 miliardi totali che l'Unione Europea deve dare alla Turchia. E l'Italia vuole che vengano scomputati, diciamo così, questi 281 milioni. Mentre l'Europa dice no, no, intanto pagate, poi dopo ne parliamo. Ma la vera partita sono i 3,3 miliardi della cosiddetta clausola migranti. In sostanza, scrive Dino Pesole, su quella tranche di ulteriore flessibilità di bilancio che la legge di stabilità destina alle spese per sicurezza e cultura, su cui tuttora pende il giudizio della Commissione europea. Cioè, noi abbiamo fatto una legge di stabilità chiedendo di poter sforare i 3,3 miliardi perché stiamo aiutando i migranti, stiamo facendo grandi sforzi per i migranti, e su questa richiesta pende ancora il giudizio, che potrebbe arrivare a una bocciatura della legge di stabilità da parte della Commissione europea. Renzi, al termine dell'incontro di venerdì con Angela Merkel a Berlino, ha sollecitato una risposta da Bruxelles sullo scorporo della quota diretta ad Ankara, cioè alla Turchia, dal calcolo del deficit. E ieri da Bruxelles è arrivata la conferma: i contributi nazionali alla facility di sostegno alla Turchia per i migranti non saranno conteggiati ai fini delle regole del patto di stabilità. Però ci sono questa clausola migranti che abbiamo messo in legge di stabilità da 3,3 miliardi. Sta di fatto che Renzi è arrabbiato. Renzi dice: voi burocrati all'Unione Europea puntate ai conti e noi invece salviamo vite. Cioè, noi siamo pragmatici nel salvare vite, voi tenete i conti. Comunque, anche Francesca Basso sul Corriere della Sera racconta a pagina 6 i tanti fronti aperti con Bruxelles. La partita è politica, però, e non tecnica. La partita vale, come detto, più di 3 miliardi, 3,3 miliardi di no pesole, la clausola che il governo ha messo nella legge di stabilità per la cosiddetta clausola migranti. E questo è per quel che riguarda l'Unione Europea. Tra l'altro c'è invece il tema, venendo in Italia, delle unioni civili. Anche lì non scamperete, ve l'avevo già detto settimana scorsa, da paginate e paginate sui giornali su questo. La legge Cirinna oggi arriva al Senato. Perché leggerete che la parola tocca a Grasso, cioè Presidente del Senato? Perché c'è la possibilità da parte dei senatori, come dei deputati, di chiedere di votare, quando sono voti di coscienza, in segreto. E su questo si giocherà una partita importante, perché il destino delle unioni civili, come racconta Monica Guerzoni a pagina 6 del Corriere, si deciderà nel chiuso dell'urna. Da Renzi in giù, i vertici del partito si mostrano convinti che la legge Cirinna arriverà alla meta entro l'11 febbraio. Eppure i voti segreti saranno cruciali. Ma quanti saranno e quali? Finché non avrà davanti il faldone degli emendamenti, il presidente del Senato non potrà decidere. Eppure i collaboratori prevedono che per i continui rimandi del testo a temi sensibili, i voti segreti concessi da Grasso saranno decine e decine, non tanto perché Grasso è favorevole alla legge, quanto per i temi etici che essa affronta. E dunque, con i temi etici, richiama i temi etici, il senatore può chiedere il voto, e anche Grasso, il voto segreto, e quando il voto diventa segreto, voi sapete che nel segreto dell'urna c'è il rischio poi che accada qualche colpo di scena. Oggi Alfano, nuovo centrodestra, che non vuole questa legge, fa un'intervista a Repubblica, intervistato da Carmelo Lo Papa, lancia un patto al Partito Democratico, più che un patto sembra più delle condizioni dettate, abbastanza condizioni capestro, perché sentite il patto che lancia Alfano: costruiamo insieme una larga maggioranza sulle unioni civili. Come? Sentite Alfano: eliminiamo dal testo qualsiasi analogia col matrimonio ed eliminiamo la norma sulle stepchild adoption. Insomma, praticamente vuol dire riscrivere tutta la norma. Comunque questa è la proposta di Alfano, che aggiunge: l'intesa tra il PD e il Movimento 5 Stelle provocherebbe gravi ripercussioni. Noi chiediamo al PD di rimediare al vizio di origine, all'errore che ha generato questo gioco degli specchi, per cui sembra che la legge si occupi di adozioni e non di diritti patrimoniali individuali. Se dal testo si elimina il riferimento alle adozioni e le analogie tra diritti e doveri dei coniugi, si possono aprire scenari interessanti. Beh, e invece per quel che riguarda le conseguenze, si provoca addirittura una crisi di governo se c'è un trauma politico. Non è che con le minacce che otteniamo i risultati, dice Alfano, ma a differenza di chi urla dalle opposizioni, noi siamo dentro la maggioranza e vogliamo condizionare le leggi ispirandole ai nostri valori. Proponiamo un percorso diverso, eliminiamo le analogie al matrimonio, isoliamo per il momento le adozioni nelle coppie gay, e su questo costruiamo una larga maggioranza parlamentare. È ancora possibile. Chissà come il PD risponderà a questa proposta Alfano, che comunque è sul tavolo. Tra l'altro Francesco Grignetti racconta a pagina 5 della Stampa il parere, o meglio i dubbi, dei costituzionalisti sulle adozioni. Per tre ex presidenti della Corte Costituzionale l'introduzione della stepchild adoption rischia di equiparare le unioni al matrimonio, e quindi ecco che ci sono i dubbi. Quando si parla di dubbi di costituzionalisti vuol dire che c'è sempre il dubbio che una legge possa essere considerata anticostituzionale e quindi non reggerà un ricorso di fronte alla Corte Costituzionale. Tra l'altro su questo tema si innesta invece, noi ci mettiamo sempre il carico all'italiana, gli insulti gratuiti davvero a Giorgia Meloni, che ha annunciato in un momento di ebbrezza, in un momento di gioia, di felicità, di serenità, in un impeto di entusiasmo di essere incinta. Da allora si è scatenata o la satira, come la Litizzetta che tempo che fa, un po' leggera ma non troppo, e poi su Twitter, su Facebook, sulla rete, spesso coperti ovviamente sempre dall'anonimato, degli insulti indicibili nei confronti di Giorgia Meloni. Ecco allora che Libero apre su questo: incinta e di destra, la sinistra lincia la Meloni. Ma anche Repubblica: Meloni al Family Day, insulti sul web per la sua gravidanza. E anche sul Corriere lei dice: sono ferita, non mi aspettavo questa enorme rabbia contro una cosa così piccola che avrei dovuto proteggere, voluto proteggere, ma non sono riuscita a difendere. Mi sento in colpa per questo e per la prima volta non so come reagire. Anche Vladimir Luxuria, la nostra Vladimir Luxuria, che spesso chiamiamo, che ha twittato: Giorgia Meloni incinta, auguri e figli trans. Non è la prima volta, tra l'altro, che tra Vladimir Luxuria e Giorgia Meloni ci sono stati scambi via Twitter molto molto al vetriolo. E comunque, insomma, c'è anche questo da registrare in questa Italietta: gli insulti a Giorgia Meloni dopo aver annunciato di essere incinta. Allora, non è incinta Mauro Meazza, non aspetta tre gemelli. Basta, basta, sono il primo a dire basta Mauro, è martedì, andiamo avanti, andiamo avanti. Ti ringrazio, buongiorno caro Alessandro, perché ho delle cose importanti da comunicare. Bene. Ma una volta le signore in attesa non si lasciava il posto sull'autobus? Adesso le si insulta un po' così. La rete non è così no, comprensiva. Non ci sono posti da lasciare sulla rete. Che cosa strana, va bene, allora... Volevo segnalarvi alcune cose sul Sole 24 Ore, caro Alessandro, soprattutto gli imbullonati. Ah, ecco. Tu ti eri dimenticato degli imbullonati. No. Gli imbullonati, cioè quei macchinari su cui gravava sì, adesso non più, un prelievo sì, non giustificato, finalmente il prelievo non grava più, ma mancavano le istruzioni. Sono arrivate, perché è stata diffusa ieri una circolare, e la prima pagina di norme e tributi è proprio dedicata al tema degli imbullonati, alla circolare sugli imbullonati. Li abbiamo sbullonati. Tu non hai questi problemi, beato te, ma invece le aziende, le produzioni che hanno il problema degli imbullonati potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Oh, poi ti voglio parlare, questa mattina sono molto radiofisco, di pazienza, e ti voglio parlare anche delle retribuzioni convenzionali, che non è il fatto che ti dovremmo dare un euro sostanzialmente al mese o forse due, ma invece sono quelle retribuzioni che si attribuiscono convenzionalmente ai lavoratori impiegati in paesi non comunitari. Allora si utilizzano delle retribuzioni appunto di convenzione per stabilire quante tasse ad esempio devono pagare o quanti contributi. Abbiamo tutta una pagina su norme e tributi che ti parla proprio di questo. Bene. Allarghiamo, visto che abbiamo passato i confini, il nostro orizzonte, andiamo alla Cina. C'è un problemuccio sì, colossale sulla Cina, che potrebbe conquistare lo status di economia di mercato. Ma problemuccio colossale, che figura retorica è? Problemuccio colossale, credo che sia un simoro, mi dicono che si può pronunciare in due come modi. Diatriba, che in realtà sarebbe diatriba. Va bene, ma anche diatriba a questo punto. Ma lo simoro serve per dire che oggi Beda Romano ti spiega sul Sole 24 Ore come la Commissione e il Parlamento dell'Unione siano un pochino indecisi sul fatto di accordare questo status, perché comporterebbe un abbassamento testuale, da Beda Romano, delle nostre difese commerciali. Insomma, rischieremo di avere una concorrenza molto molto pesante proprio dalla Cina. Leggi sul Sole 24 Ore. Ma hai bisogno di un bicchiere d'acqua intanto? Perché? No, una carissima ascoltatrice ci manda una foto di un'acqua dicendo che è per Mauro Meazza, una bottiglia d'acqua. Acqua Inter, povera di calcio. Va bene, meno male che in questo caso la rete si è mantenuta su un suo... accetto la provocazione, però... Ma non era una provocazione. Magari era. Prendo un caffè più tardi, ringrazio l'ascoltatrice. Ma non avevi detto che la piantavi lì? No, ma è l'ascoltatrice, guarda, adesso ti mando la foto. Datemi che devo fare una foto. Che sarà una tua parente, ovviamente, una tua creditrice, più probabilmente. No. Però le voglio bene. Devo ancora segnalarti delle cose, abbi pazienza, non mi interrompere. Allora, ti voglio segnalare che oggi è martedì, quindi sì, condominio. Bravissimo. Tra le altre cose parliamo del rinnovo automatico dell'amministratore. Poi ti voglio dire, lo schema Ponzi, sai cos'è lo schema Ponzi? È un sistema per truffare. Simpatico schema Ponzi. Ecco, è sbarcato anche in Cina, lo scoprirai leggendo avidamente le pagine di Finanza e Mercati. D'altra parte avidamente mi pare un avverbio adeguato per le pagine di Finanza e Mercati. E poi c'è un problema di produzione di elettricità dovuto al clima, perché la siccità sta mettendo in difficoltà la nostra produzione idroelettrica. Ma ti spieghiamo tutto su Sole 24 Ore, questo e molto altro. Io adesso ti devo salutare, vado a bere un bicchiere d'acqua, come consigliava lo sportivo. Povera di calcio, certo. Oh, povera di calcio, va bene. Volevo congratulare perché siete davanti a noi dopo... Ah, non siete davanti a noi? No, non ma siamo. Ma che curioso, caso. Va bene, caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico! Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Alessandro Milan, come la lesci la rassegna stampa, non la lesci nessuno. E mo non si facciano wap, Alessandro. Oh, queste sono le sigle che piacciono a me, grazie caro ascoltatore. Allora, mandatecele. Intanto, come si concluderà la vicenda delle statue imbragate iraniane, le statue iraniane, no? Con la visita del presidente iraniano. Ma come l'avevamo detto, cioè, a tarluce vino, nessun responsabile, non si sa mai chi è responsabile. Siamo in Italia e allora, infatti, racconta Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, sì che la dirigente del caso statue, cioè Ilva Sapora, no? Ricordate, Ilva Sapora. responsabile del cerimoniale di Palazzo Chigi, ma doveva già andare in pensione, andrà via, sarà sostituita. E il Corriere dice con una ricca buona uscita, tra l'altro. Comunque verrà sostituita, ma si è capito, scrive Marco Galluzzo, che, cioè si è capito, non si è capito che è responsabile, diciamo che c'è stato un misunderstanding, cioè termine anglosassone per dire che c'è stata un'incomprensione tra diversi uffici della presidenza del Consiglio, un'incomprensione parente vicina del concetto di pasticcio, che di sicuro solleverebbe da una responsabilità univoca i diversi organi. Cioè tutta questa bella perifrasi per dire che c'è un responsabile? No. Colpa mia, colpa tua, no ma io avevo capito così, no ma io di là, ma di su, ma di giù. Insomma, non si saprà chi ha sbagliato in maniera ridicola su questa vicenda. Comunque, saltiamo oltre, c'è questa notizia che trovate su tutti i giornali, discussa, è una notizia scientifica che però apre un dibattito etico sulla questione degli embrioni umani, perché per la prima volta in Europa, era successo in precedenza solo in Cina, succede questa volta in Gran Bretagna, la Gran Bretagna ha dato il via libera alla ricerca sugli embrioni umani. Ha autorizzato insomma un team di scienziati a condurre una serie di esperimenti di modifica genetica sugli embrioni umani. Questi scienziati dicono non lo faremo assolutamente a fini riproduttivi, cioè questi embrioni non verranno poi impiantati in nessun utero di nessuna donna per dare vita a bambini. Studieremo solo lo sviluppo umano e cercheremo di capire attraverso questi studi come mai alcuni embrioni non si sviluppano e come mai ci sono gli aborti naturali, a cosa sono dovuti. Però solo il fatto di avere dato il via libera, la possibilità di studiare embrioni, è chiaro che apre un dibattito. Avvenire, l'embrione umano si può modificare, questo l'allarme, lo dice con allarme Avvenire, è quello che è il via libera della Gran Bretagna agli scienziati, potranno fare esperimenti sul DNA. E scrive Elisabetta del Soldato su Avvenire, la Gran Bretagna è inarrestabile nella corsa al primato scientifico anche quando rischia di passare sopra profonde questioni etiche. Dopo l'approvazione qualche anno fa della possibilità di creare i cosiddetti embrioni chimera e quella l'anno scorso del via libera alla fecondazione artificiale con tre genitori, ieri l'organo che in Gran Bretagna regola il campo della fecondazione artificiale e l'embriologia ha dato il via libera a un altro controverso esperimento concedendo la licenza a un gruppo di scienziati per modificare geneticamente con una recente tecnica rivoluzionaria embrioni umani. Su Libero, per esempio, si confrontano le opinioni di Mario Giordano che dice fermatevi, basta, diamo un taglio a questi scienziati che vogliono sostituirsi a Dio, all'Onnipotente, non rendendosi conto così che ci si prepara all'autodistruzione. Passo dopo passo su questa strada arriveremo al confezionamento dei bambini su misura. Io lo vorrei biondo, io con gli occhi scuri, i capelli. Dov'è il catalogo? Prego, si accomodi. Anche se lo stesso Giordano dice dicono si tratti di una sperimentazione, dall'altra parte Filippo Facci invece dice basta, religione, il futuro è questo. I cattolici straparlano di eugenetica, ma i progressi della scienza migliorano la vita. Vabbè, il dibattito ovviamente è aperto, è un dibattito etico molto molto profondo e molto complicato. Allora, siamo quasi in chiusura? Sì, eccoci qui, siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi vince proprio sul giornale Paolo Giordano, che racconta mezza pagina che ormai è solo il rock a riempire gli stadi, anche se hai i capelli bianchi, capite? Ormai gli stadi sono riempiti solamente da quelle band un po' sugli anta, i Rolling Stones, gli AC/DC, ecco, sono solo loro che riempiono gli stadi. Ma chi se ne frega!